l'Italia, l'Italia, le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò, sì! I conti della Belva di Carlo Alberto Carnevale Maffè, Oscar Giannino, Mario Seminerio e Renato Cifarelli. Ed eccoci, cari radioascoltatori di Radio 24. Magari qualcuno di voi pensava che i compari dei Conti della Belva vi avrebbero lasciati in questa vigilia di Natale, invece no, ci siamo, cari ascoltatori. E quindi, oltre ad augurarvi, ovviamente, e ringraziarvi per l'ascolto, Oscar Giannino e tutti i compari dei Conti della Belva, anche in questo 24 di dicembre, fedeli all'ascolto, noi vi auguriamo, ovviamente, con un caloroso abbraccio, di passare buone feste con i vostri cari oggi, vigilia di Natale, stasera, domani, nei prossimi giorni, ma non vi facciamo mancare un piatto consueto di tipo, per così dire, con un aperitivo un po' agrodolce di Conti della Belva. Mettiamo i nostri doni sotto l'albero di Natale e quindi in questa puntata, dove troverete un resumé del bilancio dei mille giorni del governo, del post referendum, della situazione del lavoro in Italia, eccetera eccetera, però abbiamo deciso di appendere le prime palle ideali sotto l'albero di Natale, partendo dalle elezioni di Trump. Ma per la prima mezz'ora, ecco a voi due palle vere, perché dopo sei mesi in cui gli inglesi hanno scelto di uscire dall'Unione Europea, mica ci hanno detto ancora come fanno. Ecco, ci sono state tante sorprese nell'anno che abbiamo alle spalle. Noi cominciamo da queste trappe e poi andiamo al governo Renzi, al bilancio del post referendum e nel mercato del lavoro del nostro paese. Intanto buon ascolto e abbracci ancora. E va bene, cari ascoltatori, questa volta non ve la canto, la cantano un po' a tutti, l'avete capito, questo God Save the Queen in una versione elettrica. Questo era un grandissimo chitarrista a suonarla in, dal tetto di Buckingham Palace. Però detto tutto questo, oggi parleremo inevitabilmente, ve lo dico subito, tutti i compari dei Conti della Belva con i nostri ospiti, di Brexit. Cosa avete capito? Come la pensate? Come immaginate che evolva questa situazione? Che, ve lo dico solo per risparmiare le parole, ai miei occhi vive di questo paradosso dell'informazione italiana, guardando i giornali europei stamattina vale un po' per tutti, perché dopo aver dato per scontato per un po' di sondaggetti che tanto era ovvio che alle urne finiva con la vittoria della permanenza del Regno Unito nell'Unione Europea, oggi tutti scoprono che siamo in una specie di giornata e settimane che verranno che sono la somma dell'inizio della prima, della seconda guerra mondiale, del conflitto nucleare che non c'è mai stato. I toni a me sembrano molto, molto, molto, molto sopra le righe. Come al solito, compagni dei Conti della Belva qui in studio. Mario Seminerio. E Carlo Alberto Carnevale Maffè. E Renato Cifarelli che ci raggiunge tra poco. Voi chiamate 800-24-0024. Io capisco tutto, però ci sono oggi degli editoriali sui giornali che cominciano dicendo l'ultima perfidia degli inglesi è stata quella di prendersela comoda. Si sa che Albione è perfida. Albione. Ci sono dei toni che... poi devo dirvi la verità, ho visto ieri sera un Severgnini in televisione e oggi lo confermo leggendo il suo articolo sul Corriere della Sera, che per così dire mi ha colpito, perché la durezza con cui si giudicano gli elettori britannici, i non all'altezza, raggiratori degli altri, cioè in altre parole, il suffragio universale va bene quando la gente vota secondo quello che diciamo noi, altrimenti è l'espressione di elettori ignoranti, rozzi, incolti, nelle cui mani non affidare decisioni di questo tipo, che poi è la conferma del fatto che viva viva il divieto che in Costituzione italiana c'è contro il referendum su spesa, tasse e trattati internazionali. Io sono contrario a quella norma costituzionale perché non capisco. Forse proprio conviene perché approfondirlo. Adesso avremo il resto della trasmissione, perché io invece sono favorevole, favorevole. Abbastanza sì. Però guarda Oscar, rapidamente un sms che sintetizza diciamo il mood di alcuni italiani: a me non cambia nulla, sono al mare, ci starò per 5 mesi alla faccia della Brexit, a pranzo mangio e anche la cena idem, c'è cioè un rafforzativo, anche idem, caro Carlo, beato lei. Sarà diciamo, un retributivo, secondo me. Lei dove si trova esattamente? A Gibilterra? Gibilterra è quella che paga di più. Sta cercando di saltare in Spagna, o forse finirà in Marocco. No, però complimenti soprattutto per i 5 mesi. Cinque mesi, notevole. Scusi, per caso lei è un pensionato con retributivo? Giusto? Non lo so, giusto per capire. Allora, tentiamo di capire nello sconvolgimento dei mercati ieri, reazioni violente, come si è visto, che cosa ci aspetta dal punto di vista quindi finanziario. C'è una dislocazione vera di quel 10% di PIL che servizi finanziari sul 78% di PIL che sono i servizi nel Regno Unito. Per tutto questo e anche per capire le conseguenze invece sulle la marcia europea, i primi due ospiti, e torna con noi Alberto Gallo, che è il capo della strategia macro di Algebris. Buongiorno, buon sabato, grazie di essere con noi. Buongiorno. E Gianpier Darnit, lo conoscete, responsabile di ricerca dell'Istituto Affari Internazionali, vice direttore dell'area sicurezza e difesa. Buongiorno e grazie anche a Gianpier. Buongiorno, adesso sono anche direttore. Adesso anche direttore, siamo cresciuti di grado, noi dobbiamo aggiornare il nostro database su i titoli dei nostri ospiti. Allora Gallo, ma lei anche è stato vittima, come gran parte dei media italiani, del salto sulla sedia e non se l'aspettava in queste proporzioni, e quindi oppure no? In realtà la vittoria dell'IV è stata di un margine abbastanza piccolo. La maggior parte degli investitori era ottimista, noi ci siamo coperti e abbiamo ancora abbastanza liquidità nei portafogli, quindi da un punto di vista di investimento questa è quasi un'opportunità per trovare delle cose che si svendono nel mercato che in realtà non sono poi così collegate. Però a parte gli affari nei mercati, diciamo che è una scelta che pone dei problemi di politici di medio termine, di lungo termine, molto profondi. Nel Regno Unito si è aperta una spaccatura, ci sono i giovani e i vecchi, ci sono gli inglesi, i gallesi contro gli scozzesi e gli irlandesi, e quindi adesso in realtà è diventato un regno diviso. Il referendum ha aperto un po' queste spaccature, ma queste alla fine dipendono da 2 decadi di politiche economiche che non hanno beneficiato tutto il paese, ma solo alcune parti. Quindi, malgrado una robusta ripresa da molti trimestri che noi gli invidiamo, forse l'errore maggiore di Cameron è stato quello di non capire quanto profondo fosse, lanciare questo guanto di sfida per rafforzare la sua leadership. La valutazione intanto della... Partiamo dalla finanza, Gallo. Cioè, lei crede davvero che ci sarà un reshoring delle sedi bancarie, delle attività eccetera eccetera, perché le nuove regole tenderanno il più possibile, come vendetta, a impedire quello che fino a ieri si praticava, cioè gli intermediari britannici non erano nell'euro, però regolavano una parte molto considerevole delle loro operazioni su Londra su base, non voglio dire quasi paritaria, era loro concesso farlo eccetera eccetera. Cioè, noi andremo davvero a una separazione della finanza rispetto al peso e all'importanza che ha la piazza di Londra rispetto all'Europa? Sicuramente ci sarà un contraccolpo, in parte dipende anche da come reagiranno i governi tedesco, francese, italiano, perché ci potrebbe essere poi una reazione di chiusura da parte dell'Europa, con Parigi, Berlino che dicono alle loro banche di riportare i propri uffici indietro, in Francia o in Germania. In verità alcune banche lo hanno già pianificato e ci sono notizie su Morgan Stanley, su JP Morgan, quindi banche americane che stanno pensando di spostare alcuni uffici. Infatti Morgan Stanley ieri ha dovuto smentire ieri, perché era partita la notizia presto di 2000 già addetti che venivano dislocate tra Irlanda e Germania. Sì, esatto, cioè c'è stata una notizia sulla BBC che è stata poi smentita, però la verità è che comunque questi piani, che sono magari non approvati, tutte le banche li hanno predisposti, poi magari non sono stati ancora azionati, ma non solo banche, c'è anche l'industria più pesante, per esempio Ford, azienda americana, produce macchine, che ha degli stabilimenti nelle Midlands, nella parte diciamo centrale del Regno Unito, e c'è anche una notizia che parla di perdite di lavoro. Non soltanto sono gli impiegati delle banche di Londra, della City, potenzialmente a avere un contraccolpo, ma anche le famiglie povere, che ironicamente sono quelle che hanno votato per uscire dall'Europa Unita. Torniamo tra un minuto, sempre con Alberto Gallo e Jean-Pierre Darnis, che fino a questo momento però non ha ancora parlato. Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte. della belva. Eccoci, tornati in diretta con il compagno dei Conti la Belva. Mario. Carlo Alberto. Oscar, e sono con noi Alberto Gallo, capo strategia macro di Algebris, e Gianpiero Dannicchi, direttore della sicurezza e difesa all'OIAE, sottofare internazionale. Ricominciamo con Gianpiero Dannicchi. Dunque, nella sua valutazione, Dannicchi, l'effetto sulla troica europea, che a questo punto diventa Italia, Francia e Germania, prevale l'aspetto vendicativo, che secondo me Juncker faceva un po' bene, meglio a risparmiarsi, oppure invece l'approccio Schäuble, guardiamo alle reciproche convenienze? Ma io penso che, per fortuna, come dire, mi sembrano che la leadership italiana, tedesca e francese non siano dei sprovveduti politicamente, e quindi è ovvio che bisogna evitare un gioco a somma negativa. So che parlo con dei economisti che capiscono benissimo questo linguaggio. L'innescare di una recessione o di conseguenze pesanti britanniche avrà dei costi, o avrebbe dei costi, che si moltiplicano per tutti i paesi, specificamente per l'Unione Europea. Quindi da un lato bisogna arginare questo. Ci sarà qualche cosa, è ovvio, però meglio arginare per noi stessi. Dopodiché ci vuole una reazione europea, che non credo possa essere quella di una, come dire, un salto federalista, più integrazione, perché certamente i populismi mandano messaggi contrari. Nemmeno io, infatti. Certamente messaggi di trasparenza ulteriore, perché alcune iniziative sono anche molto, dovrebbero essere lodate. Certamente poi magari qualche politica simbolica sul lato sociale, ad esempio, o di investimenti, possono dare un segno. Si parla anche di un rilancio sul lato sicurezza, sul lato controllo delle frontiere, e questo potrebbe essere anche un altro dossier che ha un simbolismo positivo. Comunque, per esempio, per fare un esempio, cioè la Gran Bretagna, per un esempio che ci riguarda nelle operazioni militari in corso nel Mediterraneo sul delicato fronte del salvataggio dei profughi, la Gran Bretagna ha dato un contributo forte quando ci fu lo scatto, tardi, perché per tanto tempo l'Europa ci ha lasciati soli, ha lasciato la Guardia Costiera e la Marina Militare Italiana soli nel Mediterraneo, ma quando c'è stato cioè il passaggio verso il potenziamento della missione europea, la Gran Bretagna è intervenuta con una forza che altri paesi europei non hanno dimostrato. È ovvio che dietro, e questa è la mia domanda a Dannicchi, c'era anche la proiezione di forza in vista poi di una soluzione nuova, di un intervento nuovo in Libia. Il problema rimane irrisolto di Libia, ISIS, come si affronta, le strategie in realtà, da quello che si vede sul campo, dalla disposizione di forze, delle forze speciali francesi e britanniche da una parte, italiane, è molto differenziata tra i tre paesi che sono sul campo insieme alle forze speciali americane in Libia. Non ci dimentichiamo che noi perdiamo, come membro dell'Unione Europea, un membro che ha il diritto di veto al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che ha un proprio deterrente nucleare e che nella NATO. Per la partita mediterranea libica, secondo Dannicchi, la cosa di cui si occupa quindi proprio come focus suo, cosa cambia il fatto che non c'è più Regno Unito nell'Unione Europea, secondo lei? Cambia poco per la partita militare, cambierà qualcosa per la partita diplomatica e per l'esclusione della Gran Bretagna di meccanismi di ricostruzione sotto guida Unione Europea. Comunque per la partita militare, perché la sovranità delle questioni militari era rimasta nell'Unione Europea una cosa centrale, la NATO è fondamentale, quindi non è che un ritiro della Gran Bretagna pone un handicap su quel meccanismo. Dopodiché ci sono una serie di problemi abbastanza, direi, da snocciolare sull'industria della difesa, perché lì parliamo di mercati, investimenti, cose, e lì ci possono essere delle problematiche. Ci possono essere poi delle problematiche non sull'uso della forza militare, perché la Gran Bretagna in coalizione o nella NATO rimane un attore che giocherà e giocherà con i suoi alleati. Mi sposto con Alberto Gallo e torniamo invece all'economia e alla finanza. Ieri la BCE, che era pronta a intervenire fin dalle prime ore della notte, cioè all'apertura dei mercati, ma comunque come tutti aveva approntato dei piani di emergenza. Piani di emergenza che significano sì interventi straordinari in proprio, ma significa anche collegamenti con linee rosse, con Bank of England e con le altre banche centrali. Alla fine non è intervenuta, anche se come evidente c'è un problema che riguarda i cambi. Allora, la prima domanda è: poiché se continua questa instabilità, il effetto rafforzamento sul dollaro proietta, e quello che più proietta conseguenze di frenata della crescita reale nel mondo, con la quantità di debito denominato in dollaro di paesi ex emergenti ora bloccati, in frenata, in panne, questo diventa un problema di stabilità mondiale, di mancanza di crescita mondiale. Dopodiché non dimentichiamo che più del 40% del PIL mondiale riferito a paesi le cui valute sono collegate una maniera o un'altra al dollaro, il rafforzamento del dollaro significa anche questo. Quindi c'è un primo problema. Di fronte a quel problema, prima domanda, bisogna aspettarsi che le banche centrali si coordinino anche sui cambi, che tendenzialmente non è proprio così normale che lo facciano, oppure no? Seconda questione, come si vede l'Italia e la Spagna sono pesantemente esposte sull'instabilità europea per via dei fondamentali, non per la speculazione cattiva, per via dei loro fondamentali: debiti alti, nel nostro caso crediti deteriorati alti, nel nostro caso bassa crescita e produttività stagnante. Allora, su questi due effetti cosa ci deve aspettare in termini di interventi straordinari a fronte delle conseguenze dollaro tra banche centrali? E secondo, l'esposizione italiana sulla volatilità che ci aspetta, che pensa Alberto Gallo? La prima reazione delle banche centrali sicuramente è di proiettare tassi bassi per molto molto più tempo, quello che io chiamo un po' QE infinity, quindi fare QE, quantitative easing all'infinito, perché se la Fed alza i tassi, ci sono tantissimi paesi e aziende nel mondo che hanno preso a prestito in dollari, però hanno degli utili che sono in valuta locale e quindi se il costo del debito aumenta non riescono più a pagarlo. Il vero problema è anche la Cina, che sta rallentando, e quindi se il dollaro si rafforza molto la Cina potrebbe essere tentata da fare una svalutazione, che è diciamo la valvola di sfogo che hanno utilizzato già l'anno scorso. Questo però crea altri effetti di contraccolpo su tutti gli altri mercati emergenti dell'Asia e anche Sud America, che dipendono dalla Cina, perché la Cina ha importato materie prime da Brasile, Sudafrica, Australia, tantissimi altri paesi negli ultimi 10 anni, e quindi il motore produttivo della Cina rallenta, loro deprezzano, si svalutano tutte le altre valute dei mercati emergenti, il loro debito aumenta e si crea una specie di terzo credit crunch nei mercati emergenti, quindi questo è un problema. Finora i banchieri centrali lo stanno controllando. Per l'Italia e la Spagna c'è anche ovviamente l'incertezza finanziaria crea un rallentamento negli investimenti, e l'abbiamo già vista nel caso della Grecia, nel caso del Portogallo, quindi anche paesi che sono vicini possono creare incertezza. Questa volta abbiamo la BCE più aggressiva, che ha già l'OMT, il TLTRO, tutti questi programmi per comprare obbligazioni, non solo titoli di Stato, anche obbligazioni corporate. Quindi l'incertezza è un po' minore rispetto ad avere un membro dell'Eurozona che esce, come la Grecia. Regno Unito, diciamo, era sempre stato con un piede da una parte e un piede dall'altra. Detto questo, secondo me ci andiamo a perdere sia noi che loro, ma ci vanno a perdere più loro, in particolare tutta la gente comune. C'era un imprenditore che diceva: il Regno Unito è la porta dell'Europa, ma senza l'Europa è solo una porta. Alberto, però io ho una cosa da chiedere su Londra. Londra, che è la seconda città d'adozione per molti di noi, si discute in giro di una break up del Regno Unito. Effettivamente la Scozia ha detto chiaramente. Ma hai detto che... è o era? Era, perché... No, dai, insomma, ma pure tu ragioni così. Lasciami dire una cosa, Alberto, perché sono preoccupato. E si parla in giro a Londra di uno status alla Hong Kong, cioè di quello che si chiama Scotland, ovvero di fatto di un reshuffling della situazione del Regno Unito, che porterà status diversi per la Scozia e per Londra. Londra può avere un destino diverso dal resto del Regno Unito, secondo te? La cultura londinese, che è oggettivamente cosmopolita, non appartiene all'Inghilterra tanto quanto New York appartiene forse agli Stati Uniti, cioè quasi logisticamente ma non culturalmente. Che ci puoi dire su questo? Ci sono circa 2 milioni di cittadini dell'Unione Europea a Londra, e il sentimento è di frustrazione, di tristezza. Io penso che però sia difficile creare uno status diverso legale per una città che comunque confina col resto del paese. Però ci sono state in passato delle restrizioni minori sugli investimenti, sulle tasse, cioè la City of London è nata molti molti anni fa come una zona che era regolata diversamente, e nella storia per esempio la regina non era neanche autorizzata ad entrare nella City senza il permesso del sindaco della City, che è diverso dal sindaco di Londra, quindi ci sono state delle regole speciali. La mia impressione è che comunque il Regno Unito non riesca a separarsi dall'Europa a livello di industrie e servizi. Ma infatti. Ma infatti era la porta, caro Alberto, ma su, Dio mio. Non lo so, non lo so. Io vedo una grande incertezza sugli investimenti. Più dura questa situazione, diciamo, di incertezza, e più gli investimenti scappano. Esatto. E quindi non so chi conviene far scattare l'articolo 50 per prima. Posto che l'articolo 50 perde il primo che canta qui, questo posso dire, perché ovviamente fa scattare un meccanismo che ha conseguenze poi definitive. Ricordiamo, l'articolo 50, quando la domanda verrà, il Consiglio europeo deve votare all'unanimità senza il Regno Unito. A quel punto le guidelines da dare alla Commissione, si apre la trattativa, può durare 2 anni protraibili. A quel punto, sulle conclusioni che vanno condivise tra Commissione e Regno Unito, si deve ripronunciare il Consiglio europeo a una maggioranza qualificata che sia almeno il 55% della popolazione europea. Dopodiché deve votare il Parlamento europeo. E questo, ripeto, è come si esce. Non sono i trattati che possono richiedere, richiederanno molti più anni rispetto all'articolo 50. Bene, mi stai dicendo che tutta questa incertezza non farà altro che ridurre. Sto dicendo che la ragionevolezza rispetto a tempi così irreali posta da regole formali di questa, come tutti i trattati europei, consentitemi, cioè c'è un ragionamento di fondo su questa impalcatura burocratica europea che io condivido integralmente, anche se è vero che i piccoli imprenditori che hanno detto ce ne liberiamo adesso scopriranno che pagheranno il prezzo, come dice Mario. Torniamo tra un minuto. Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò, sì! I conti della Belva. Ed eccoci qui, tornati per spiegarvi idealmente quali altre, tra virgolette, palle o regali ci troverete e troviamo tutti quanti al sotto l'albero di Natale tra poche ore. Dopo la Brexit, di sicuro un'altra grande vicenda che ha lasciato tutti con tanto di naso, tutti ma non proprio tutti, io non proprio, e i compagni dei Conti della Belva insieme a me, Carlo Alberto Carnevale Maffè, Mario Seminero, Renato Cifarelli, no, è stata l'elezione a sorpresa per moltissimi di chi? Di Trump. Prossimo presidente degli Stati Uniti. Ecco di questo il prossimo quarto d'ora. Oscar Giannino qua al microfono insieme ai suoi compari in studio a Milano, Mario Seminerio e Carlo Alberto Carnevale Maffè. Carlo Alberto Carnevale Maffè, che questa puntata giocherà per intero over tutte the le land carte of the free and the home of the brave. Lo ricordate, dato i numeri solo per ricordarcelo, ecco. No, solo per ricordare che sabato scorso non aveva dubbi il nostro Carlo Alberto. Avevo i dubbi, però diciamo che non avevo i vostri dubbi, e soprattutto pensavo che non fosse poi l'apocalisse che stavate dipingendo. Esattamente. Quindi abbiamo svolto bene la nostra funzione sabato scorso, perché a differenza del concerto dominante, ecco, non solo degli Armageddon, ma di coloro che dicevano che tanto non c'era affatto contesa, al 90% aveva già vinto, ma insomma praticamente potevano non aprirli i seggi a quanto pareva, e invece le cose sono andate diversamente. Allora oggi sicuramente parliamo su cosa ci dobbiamo aspettare, come dobbiamo interpretare questo voto, cosa ci dobbiamo aspettare, come l'avete presa, l'avete buttata giù, avete preso un po' di digestivo questa cosa oppure no, o la pensate come Saviano. Saviano oggi, intervistato alla stampa, dice che moriremo tutti, dice che letteralmente i bambini killer di Napoli e gli operai che hanno votato Trump sono ugualmente vittime messe all'angolo dalle caste, marginalizzate nella società. I bambini killer della camorra e gli operai che hanno votato Trump sono ugualmente vittime. Io, vabbè, di fronte a questo collasso mentale, mani. È un artista, è uno scrittore, quindi è immaginifico. Diciamo. Allora, la domanda diventa adesso: che cosa in concreto, aspettando di vedere quali saranno le sue scelte sul fisco, su Obamacare, sulle infrastrutture, ci aspetta un'ennesima enorme esplosione del debito pubblico americano? Cosa succede alle asset class a questo punto, alle obbligazioni, ai mercati azionari? C'è un decoupling degli andamenti tra le banche centrali? Chi nomina la Fed e che cosa fa? Accelererà il percorso per alzare i tassi rispetto alla BCE, mettendola in difficoltà? Ecco, tutte queste domande che noi ci poniamo in maniera ipotetica da questo punto di vista, perché ammettiamo di non avere le fonti dirette per sapere che cosa diavolo farà davvero. Abbiamo con noi Alberto Gallo, capo delle strategie macro di Algebris. Grazie di essere con noi in questo sabato mattina, Alberto. Buongiorno. Sperando che tu abbia delle fonti dirette migliori delle nostre, visto che stamattina abbiamo letto per esempio che potrebbe Bob Barrow di Harvard, uno dei più grandi economisti degli ultimi decenni, essere nominato all'interno della squadra di Trump. Boh, vedremo chi metterà al tesoro, magari fosse Bob Barrow per quello che mi riguarda. Ma in realtà, dal vostro osservatorio, Alberto, che cosa vi aspettate davvero? Ci sono due grandi passi che sono stati fatti negli ultimi mesi. Il primo è che c'è un movimento verso la politica fiscale, quindi non soltanto quantitative easing, quindi le banche centrali che stampano moneta, ma finalmente si spendono dei soldi per infrastrutture. Questa è una cosa positiva per creare inflazione, che era quello che mancava nell'economia da molto tempo. Quindi la squadra di Trump sembra una squadra seria, e c'è uno scenario positivo che il mercato ha apprezzato vendendo obbligazioni e comprando azioni. Quindi mentre negli ultimi anni il movimento del mercato era sempre stato di scommettere sulle banche centrali ma non sulla crescita, adesso si è invertito. Ci sono anche però degli scenari negativi, soprattutto per i mercati emergenti, e in particolare nel caso di guerra economica con la Cina o col Messico. Se posso, Alberto, io ho visto sul programma di Trump che lui vuole recuperare 1.7 trillion dollars, quindi 1.700 miliardi di dollari sulla trade policy, sostanzialmente modificando i rapporti di scambio, fondamentalmente diciamo dazi, tariffe o forme comunque di ribilanciamento. Sì, lui ha indicato i 5 paesi in cui c'è il maggior deficit, cioè Messico, Cina, Taiwan, Giappone, Corea del Sud, dicendo che su quelli vuole modificare NAFTA per Messico e per gli esteri applicare dazi. Però appunto non è che stiamo esattamente parlando di paesi in via di sviluppo, stiamo parlando di un target abbastanza specifico con cui lui vuole aprire un tavolo di negoziazione. Non so, ecco, io ho trovato che non fosse proprio così chiara la lettura dell'antiglobalizzazione. Mi sembra più un regolamento di conti e un riequilibrio. Ricordo anche che ci sono circa 800 miliardi di deficit commerciale sui prodotti fisici, ma gli Stati Uniti hanno 300 miliardi di surplus sui servizi, quindi il netto fa 500 miliardi di trade deficit, ma è un netto, fatemi dire, un po' trilussiano. Volevo un tuo commento su questo. Diciamo che l'amministrazione di Trump si trova a voler spendere e ha due scelte: o aumentare il debito pubblico, come dicevamo prima, oppure cercare di risparmiare, di trovare dei soldi in vari modi, uno dei quali è di ridurre le spese all'estero, per esempio Nazioni Unite, Fondo Monetario, aiuti a paesi in via di sviluppo, l'altro è di cercare di estrarre, diciamo, più valore da questi trattati. Però c'è anche nel programma c'è anche una tendenza a essere un po' protezionista, per esempio un 15% di tariffe sui beni importati dalla Cina, oppure limiti all'immigrazione. Tutte queste cose potrebbero essere poi negative, anche se non si sa bene se sono soltanto un espediente elettorale oppure se verranno effettivamente fatte. Io ricordo tutti che in materia di politica commerciale il Senato ha poteri totalmente necessari, cioè senza il voto a favore del Senato non si cambia niente, non si fa politica commerciale nel bilancio istituzionale dei poteri e dei contropoteri, dei checks and balances della Costituzione americana. Certo, voi potreste dirmi, però il Senato è restato repubblicano, sì, ma e soprattutto è rimasto repubblicano a 51 voti e non sono certo 51 voti dei repubblicani controllati da Trump, anzi sono più controllati dall'elite ostile a Trump che lui ha sbaragliato in campagna elettorale, però resta questa l'opzione. Sì, e ricordo che i repubblicani tradizionalmente sono per il free trade, cioè esatto. se mai sono i democratici che hanno una tradizione un pochino più protezionista, quindi anch'io sono, Alberto, ti confesso che siamo tutti qua in attesa di capire, però il quadro che emerge, se posso, non è così estremista, proprio per il fatto che ci siano iniziative un po' a macchia di leopardo. Io non so se possiamo tirare un giudizio, ecco è arrivato l'antiglobalizzatore, l'isolazionista, a me non sembra che possiamo tirare queste conclusioni. Non è negativo, per l'America soprattutto, perché comunque la maggior parte delle politiche che sono, diciamo, nel piano favoriscono la crescita interna, la crescita delle aziende domestiche americane. Però c'è una paura che ritirandosi dal quadro internazionale l'America lasci piede libero alla Russia di Putin e ad altri regimi che hanno voluto proiettare il proprio potere verso l'Europa, per esempio. E quindi questo potrebbe destabilizzare altri paesi. Cioè, il timore è che non soltanto Trump in America, ma anche UKIP nel Regno Unito, oppure Le Pen in Francia, possano poi avere delle mire, delle forze centrifughe dall'Europa. Cioè, in altre parole, noi sappiamo che Putin ha avuto dei collegamenti con Trump, ma anche con Le Pen e altri anche con altri paesi europei, per una potenziale destabilizzazione dell'Europa. Quindi ritorna un po' nei mercati la paura della rottura dell'Eurozona dopo l'amministrazione, dopo le elezioni di Trump. Io però leggo alcune interpretazioni italiane, sono una sotto mano adesso, di chi naturalmente ha sempre sostenuto che il vero problema in Italia sono in Europa sono i tedeschi, sono europei, che mi sembrano surreali. Ti leggo la sintesi, non ti dico chi è, così non ti metto in imbarazzo, a favore o contro, ma semplicemente per sapere se ha un fondamento secondo te tesi di questo tipo. La sintesi di questo articolo, che in mano sono due pagine su un settimanale finanziario che esce sabato nel nostro paese: Trump chiederà ai grandi paesi in attivo strutturale come la Germania di aumentare le importazioni, altrimenti calerà l'asso dei dazi doganali. Allora, la correlazione tra il surplus commerciale tedesco, dove si origina, come si fa, e Trump che dice fai così oppure io alzo i dazi doganali, io non la vedo, però magari mi sbaglio. Tu che dici, Alberto? Secondo me questa è una cosa abbastanza pericolosa, perché l'America ha tenuto il dollaro abbastanza basso, forse più basso di quello che dovrebbe essere, per molto tempo. Perché? Perché la Federal Reserve non ha alzato i tassi, quindi nel momento in cui la Federal Reserve alza i tassi di interesse, ci sono più soldi che vanno in America, il dollaro dovrebbe apprezzarsi, però questo poi va a beneficiare l'Europa. Quindi è vero che la Germania ha un surplus, però è un surplus generato perché la Germania esporta molti beni all'interno dell'Europa, non avendo il marco, ma avendo la stessa moneta. Però l'America in realtà quello che dovrebbe fare è alzare un pochino i tassi di interesse, lasciando un pochino di più spazio alla BCE, lasciando l'euro più debole e quindi lasciando più spazio alla Germania per esportare. La stessa cosa con la Cina: se ci sono queste tariffe sui beni importati dalla Cina in America del 15%, la prima cosa che la Cina farà è deprezzare lo yuan del 15% almeno, quindi poi scatta un circolo vizioso tra i vari paesi. E riparte alla grande il pericolo. Una guerra valutaria, protezionismo, esatto. Protezionismo a mezzo di valuta. Sì, sì. Teniamo conto che l'Unione Europea, unica delle grandi aree macro mondiali, si stava rapidamente impiccando a una data in ambito di negoziati commerciali, cioè la data del 16 dicembre, entro la quale dare una risposta o meno automaticamente alla Cina per la concessione della clausola di economia di mercato dopo 5 anni dall'ingresso nell'Organizzazione Mondiale del Commercio. E proprio in questa settimana è uscita la bozza di regolamento proposto dalla Commissione Europea, nella quale si conferma questa scelta. Cioè, nel mentre l'America di Trump fa del passo indietro sul free trade uno dei maggiori punti, vedremo come si è attuato, l'Unione Europea invece resta sola sull'altra strada e vuole accelerare. Qui abbiamo pezzi di Confindustria che sono in fiamme per questo, perché ovviamente dicono è un errore assoluto, ma dal punto di vista italiano, dell'economia italiana, della bilancia commerciale nostra, eccetera eccetera, Alberto, tu che dici? L'Unione Europea gli conviene accodarsi a questo neoprotezionismo, chiamiamolo così, americano, anche se ne vedremo ben risultati solo quando si tradurrà in cose concrete, oppure no? L'Europa viene un po' lasciata sola in questo quadro, perché anche a livello militare, diciamo, l'amministrazione americana dà meno supporto alla NATO e meno supporto economico all'Europa. C'è una cosa positiva, che appunto se la Federal Reserve alza i tassi più velocemente dovrebbe dare un pochino più di ripresa all'Europa. Io penso che bisogna assolutamente evitare questa potenziale guerra economica oppure guerra valutaria tra l'America e la Cina, perché se la Cina reagisce deprezzando lo yuan, poi tutte le altre valute dei mercati emergenti si deprezzano al seguito, e nello scenario peggiore ci può essere una crisi del debito sui mercati emergenti, perché molto spesso il debito è denominato in dollari, quando invece le tasse vengono pagate in valuta locale. Quindi questo deprezzamento della Cina e delle altre valute nei mercati emergenti potrebbe poi aumentare il prezzo di ripagare il debito e, nel caso peggiore, spingere alcuni paesi più piccoli in default. Quindi questo è, diciamo, lo scenario peggiore che possiamo vedere nel caso dell'amministrazione di Trump, quindi una negoziazione dura con la Cina che poi si risolve in una crisi sui mercati emergenti e alla fine si ritorce anche contro l'America, come abbiamo visto nel 2013 quando la volatilità sui mercati emergenti impedì alla Federal Reserve di alzare i tassi. Allora abbiamo una pausa e torniamo tra poco. Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a coorte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Eccoci qua e continuiamo, cari radioascoltatori, in questa specie ideale cavalcata alla vigilia di Natale sui temi più importanti che ci troviamo aperti, risolti e con conseguenze che andranno oltre questo Natale, ma insomma su cui riflettere, perché i regalini non sempre troppo graditi e a volte inaspettati sono arrivati, per esempio, oltre che sulle vicende già abbiamo visto, cioè sulle elezioni di Trump e con Brexit, con i risultati del referendum lo scorso 4 dicembre. Ed è di questo che per il prossimo quarto d'ora parliamo con l'ex consigliere di Renzi, ma ancora però responsabile economico del PD, professor Filippo Taddei. Buon sabato mattina, Filippo. Buon sabato mattina a voi, radioascoltatori. Allora, Carlo Alberto, la tua domanda, Filippo. Gli chiediamo se può tirare un bilancio della comprensibilità delle scelte economiche di Renzi rispetto a come ha votato l'opinione pubblica, che evidentemente non ha votato eminentemente per il quesito referendario, ma insomma, ha espresso un parere, diciamo, laterale. Come giudichi quello che è passato nella testa degli elettori italiani dei 1000 giorni di Renzi? Penso che quello che ci hanno ricordato, che ci ha ricordato quel voto, è che è un voto che ha naturalmente una valutazione sulla riforma istituzionale, in particolare sugli aspetti che sono stati enfatizzati di quella riforma, abbia naturalmente anche un voto per quello che si è diventato anche un voto su quella che era la percezione generale del governo. Non doveva essere così, è un po' un peccato, insomma, utilizzare uno spazio di democrazia per la riforma costituzionale, su cui ognuno può avere le sue opinioni, per fare una sorta di micro sondaggio sul governo. Però posso dirti che colpa anche, ecco, la responsabilità primaria è di chi ha cominciato, no. Chi ha cominciato poi magari mi si dice. Comunque, diciamo così, quel voto naturalmente, e io volevo, stando alla vostra domanda, vorrei dargli una lettura economica. Lasciamo da parte tutti i temi istituzionali, lasciamo da parte il fatto che abbiamo perso la più grande occasione di rendere il nostro Stato efficiente, di poter portare dei benefici concreti ai cittadini. Non l'abbiamo spiegato abbastanza, i cittadini non l'hanno apprezzato abbastanza, è colpa nostra. Però naturalmente questo ci ricorda un'altra cosa, ci ricorda che in realtà un tema che in realtà emerge anche dal dibattito americano. Devo dire che sono sempre un po' resistente a essere rappresentato come quelli della narrativa contro la dura realtà, che è un'altra. Insomma, io, il mio punto di vista è che se noi guardiamo il numero, oltre ai flussi dagli inattivi agli disoccupati, anche quelli che sono i flussi nella occupazione, i numeri dell'occupazione, e in particolare il tasso che secondo me è sempre centrale nel mercato del lavoro, che è il tasso di occupazione, noi vediamo che il tasso di occupazione è veramente la misura di un mercato del lavoro in Italia che si è ripreso molto di più della sua economia. È cresciuto di 2 punti, che ha creato nuovi lavori. Eppure i nuovi lavori non sono bastati, lo rivela anche il voto referendario. E non sono bastati né in Italia né tantomeno in America, perché quello che scopriamo è che non contano solamente i lavori, il numero dei posti di lavoro che crescono, il fatto che il tasso di occupazione, cioè quanti lavorano, su quanti potrebbero lavorare, cioè hanno l'età per lavorare, cresca, ma conta dove i lavori vengono creati. La geografia del lavoro prepotentemente entra nel dibattito italiano. Il fatto che in particolare quella crescita del lavoro abbia sia stata molto piccola per gli under 25, sia stata praticamente nulla per gli under 35, sia stata concentrata negli over 50, sia stata prepotentemente nel nord Italia e molto, molto bassa fino agli ultimi 2 trimestri nel sud Italia, ti dice che in realtà non basta avere una ripresa del lavoro, ma conta che questa ripresa sia uniforme. Guarda, vale in Italia, ma vale anche in America. Se voi guardate la dinamica, io lo segnalo sempre ai miei studenti quando ti dicono: ah, ma l'America sta andando bene come mai prima. E dico: guardate non il tasso di disoccupazione, guardate il tasso di occupazione, guardate quanta gente ha il posto di lavoro. E voi vedete che oggi l'America ha un 3% di meno di tasso di occupazione rispetto al pre-crisi, che vuol dire che in America mancano rispetto al pre-crisi 5 milioni di posti di lavoro. In Italia siamo più o meno a una differenza simile, cioè ci mancano 2.5 punti rispetto al pre-crisi di tassi di occupazione, quindi mancano i posti di lavoro, ma mancano in particolare in alcuni luoghi. In America sono mancati in Pennsylvania e in Ohio, e sappiamo come quegli stati hanno votato, infatti. In Italia hanno votato in un pezzo ampio del nostro paese, soprattutto al sud, soprattutto tra i giovani, e sappiamo come ha votato il sud e come hanno votato i giovani. Però Filippo, onestamente, non è una missione di colpa quella di avere puntato su provvedimenti tampone, su bonus, invece di intervenire strutturalmente sui problemi del lavoro e dell'industria italiana. Onestamente, non è il caso di ammettere adesso che le logiche del bonus, delle prebende concesse qui e là, non hanno premiato, soprattutto se poi accompagnate da una narrativa che voleva negare la realtà. Se tu mi dici sono irritato dal bonus su sull'iperammortamento per quello che riguarda le nuove tecnologie, che siano la stampante 3D eccetera, perché volevo qualcosa di più strutturale, e io ti dico va bene, quanto vale quello? Quanto vale l'iperammortamento sulle stampanti a 3D, l'internet delle cose, piuttosto che altre tecnologie abilitanti che sono secondo me importanti? Quello vale all'incirca neanche mezzo miliardo di euro. Quanto vale la riduzione permanente della tassa sugli utili aziendali, che diventa permanente, insomma, da 27,5% al 24%, quello vale 3,5 miliardi. Tu mi dici, avete fatto la politica della decontribuzione del costo del lavoro, anche quello è un bonus perché dura poco nel tempo. E dico, bene, abbiamo fatto la decontribuzione del lavoro, cioè il fatto che i nuovi assunti nel 2015 per 3 anni praticamente non pagassero contributi, nel 2016 per 2 anni, e adesso nel 2017 per i giovani lavoratori, pensate ancora una volta, si è tenuta la decontribuzione per il prossimo anno solo per i giovani lavoratori. Comunque sono tutte politiche temporanee. Bene, quello quanto vale? Quanto vale? Vale più o meno, si sentono questi numeri sparati dalla CGIL di 20 miliardi, che voglio dire, cioè, li sentiamo su tutto. Ma non sull'algebra, non sulle addizioni. Quello ha un flusso, okay? La decontribuzione costa qualcosa che vale tra i 2 miliardi e i 3 miliardi all'anno. Il taglio permanente del costo del lavoro dell'IRAP, quanto vale? Quanto vale quello che è permanente? Quello vale 5 miliardi all'anno. Quindi io vi dico, ci sono alcune politiche che sono temporanee, cioè di bonus. Poi ci sono stati dei cambiamenti strutturali. E la misura delle politiche strutturali, il valore, il costo delle politiche strutturali è enormemente più ampio rispetto a quello dei bonus. Quindi caratterizzare questo come il governo delle politiche temporanee, come si dice dalle mie parti, un buco e una toppa. Ritieni che sia sbagliato? Se uno vede, Filippo, il totale delle risorse che voi avete mobilitato come ordine di grandezza in 1000 giorni è superiore ai 3 punti di PIL, cioè se somma, in altre parole, le maggiori misure di politica economica da le tantissime risorse per la decontribuzione, fatta la trasformazione di tutti i rapporti di lavoro e non all'occupazione aggiuntiva, uno. Due, se va a vedere bonus 80 euro, tanta roba, anche lì, i mutasi prima casa, stiamo comunque parlando di quasi 4 miliardi, e poi somma tutto il resto, stiamo parlando di 3 punti di PIL, non poca roba, ecco, cioè... Visto che poi la polemica sull'austerità è diventata invece è infondata, perché stiamo parlando di bilanci tecnicamente di portata e segno moderatamente espansivo, ma 3 punti di PIL per come era conciata l'Italia, tanta roba. Allora io ho un'obiezione sul fatto che l'effetto a me sembra non soddisfacente, perché con 3 punti di PIL, a seconda di come uno la pensa, se un liberista dice io mi finanzio nel breve il minor gettito di una aliquota flat convergente al 25%, non parlo del 15% della Lega, io stesso direi che nelle condizioni italiane non si può essere così azzardati, io per primo, ma per dire, per fare un esempio, ma te ne faccio un altro di politiche sociali più coerenti con quello che dovrebbe essere anche l'impostazione di una certa sinistra e che poi avete pagato al voto. Se uno va a vedere il troppo tardi l'avvio delle politiche attive del lavoro, cioè l'assegno di ricollocazione che parte adesso, vede che sono 200 milioni per 30.000 soggetti la prima sperimentazione. Diciamo che servirebbe per 600.000, 500.000, e a quel punto, se uno prende per buono lo stanziamento di 200 milioni, arriva a 4 miliardi. Io non ho dubbi sul qual è la priorità, se mi dici tra i 10 miliardi del bonus 80 euro fino a 26.000 euro lordi di reddito e invece un intervento da 4 miliardi per l'assegno di ricollocazione subito 2 anni fa per i disoccupati di lungo periodo che si affianca al NASPI e però introduce il tutoraggio e politiche attive del lavoro che sono quelle che ci servono. Certo. Su questa cosa, cioè, io non avrei dubbi. Oscar, ecco, ti faccio questo esempio, Filippo, come vedi non è una contestazione radicale, non c'entra niente la politica. Guarda Oscar, per me partire dalla detassazione del lavoro, visto il carico fiscale sul lavoro, è stato una, quindi con il bonus di 80 euro, possiamo dissentire sulla forma tecnica di quel bonus, ma penso che non ci sia nessun dissenso sul fatto che ridurre la tassazione sul lavoro sia priorità numero uno nella Repubblica fondata sul lavoro. Figurati. A parole, quindi siamo d'accordo. La politica è confronto con la realtà. Io domani voglio far partire la segno di ricollocazione, è un'ottima idea, no? Come tante altre ottime idee, come fare anche magari un bel piano energetico nazionale. Bene, io oggi, per fare questo, siccome le politiche attive sono competenza, se voi leggete il 117, cioè la... No, ma adesso ci sarà un casino, è ovvio, hai ragione. No, ma non solo adesso, Oscar, c'era anche prima. Sì, certo. Cioè, io prima, se io... dovete, cioè, i cittadini italiani devono capire questo. Se io oggi, per fare funzionare l'assegno di ricollocazione per tutti i disoccupati italiani, devo fare 21 convenzioni provinciali, regionali, 21 perché naturalmente Trento e Bolzano hanno bisogno di due convenzioni separate, perché non sia mai, per far funzionare quella che è un'infrastruttura nazionale, che in ogni paese normale sarebbe una scelta nazionale. Quando abbiamo incontrato il ministro del lavoro tedesco, che ci guardava con gli occhi a sbarrati, palla, quando gli dicevamo del nostro Jobs Act ammirato dall'impianto generale, parliamo del 2014, aveva questo problema, lui ha detto oimè che cattivo paese, cambiamo le regole. Vabbè Filippo, comunque continueremo il nostro confronto, intanto noi adesso abbiamo il giornale radio. Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Ma continuiamo sulla scia di quello che ci ha detto Taddei e quindi del post referendum e poniamoci il problema del bilancio dei 1000 giorni complessivi del governo Renzi sotto due punti di vista. Spesa, insomma, cosa pensare del fatto che i commissari alla spending review sono stati travolti nel governo Renzi? Tasse, ma è vero che davvero sono diminuite? E poi parliamo anche con David Carretta di un altro punto. L'atteggiamento negli ultimi due mesi di scontro con l'Europa fino al veto del prossimo bilancio europeo, che in realtà vedrete, il tempo passerà, il veto non ci sarà. Ma insomma, facciamo un bilancio di questi 1000 giorni con il professor Luca Ricolfi e David Carretta. Professor Ricolfi, qual è il suo bilancio dei 1000 giorni in economia del Premier? Ma ci sono due facce strettamente connesse, a mio parere. La faccia positiva, che raramente viene considerata, è la statistica che prima l'ISAE e ora l'Istat pubblicano mensilmente sulle famiglie in difficoltà, le famiglie che a fine mese sono costrette ad attingere alle riserve o a fare debiti. Bene, questa percentuale di famiglie in difficoltà aveva raggiunto due picchi, uno sotto Prodi nel 2008 e l'altro sotto Monti e Letta. Eravamo arrivati al 30, 32, 33% a seconda dei mesi. Ora, questa percentuale di famiglie in difficoltà è crollata nei 1000 giorni di Renzi. Ormai stiamo scendendo sotto il 20%, cioè stiamo tornando al picco Prodi. Questo è indubbiamente un risultato positivo. Però questo risultato, che dipende in larga parte dalla decontribuzione che ha permesso di aumentare i posti di lavoro di più di quello che sarebbe stato senza la decontribuzione, dipende dagli 80 euro, dipende dalle varie mance che sono state date. Questo risultato ha un'altra faccia, e cioè l'aumento del debito pubblico dell'Italia, che proprio dai giorni in cui Renzi si è insediato cresce di più di quello degli altri paesi europei. Se noi facciamo il rapporto tra il debito pro capite, rapporto debito-PIL dell'Italia e il rapporto debito-PIL degli altri paesi, o se lo facciamo anche pro capite, il risultato è sempre lo stesso. Grosso modo nel 2014 c'è l'inversione di tendenza e la posizione dell'Italia peggiora. Questo in concreto vuol dire che i nostri figli e nipoti avranno un problema più grande di quello che Renzi ha ereditato. Queste sono le due facce, a mio parere. Ma c'è qualcosa che l'ha sorpreso in particolare? No, perché Io sono abituato a pensare che lo scopo di un governo sia di fare consenso, non di risolvere i problemi del paese. Quindi non questa però è l'interpretazione italiana dello scopo di un governo, diciamo, no? Prevalentemente italiana. Attenta, è anche una realistica lettura di public choice questa, quindi di una grande scuola. Italiani, naturalmente. Certo. Ma anche nel mondo funziona così, cioè James Buchanan ci ha insegnato che insomma, bisogna guardarlo con disincanto il vero fine di un governo. Sentiamo David Carretta. Davide, puoi spiegare ai nostri ascoltatori che cosa davvero è avvenuto sui numeri? Perché loro si sono trovati sui giornali in Italia, chi non segue, cioè praticamente tutti, nei dettagli, il rapporto tra Italia e Unione Europea, è come se ci fosse stata la rottamazione assoluta di questo spirito di grande intesa dell'Italia che aveva ospitato sul ponte del suo incrociatore Portero Mobile la Hollande e la Merkel con Renzi che faceva Spinelli praticamente. E invece poi adesso il veto, il bilancio europeo, la gente poi non ha capito, si parla di quello del 2020 per 6 anni, quello del 2017, ma cos'è di preciso? Però alla gente è arrivata semplicemente che abbiamo la mascella quadrata protesa contro i cattivi tedeschi e l'Unione Europea. In realtà un po' una schedina ti chiedo sui conti e le cose vere che sono avvenute e la tua interpretazione sul perché questa poi sceneggiata. Innanzitutto l'interpretazione, credo che i numeri che contino davvero per il Presidente del Consiglio Matteo Renzi sono quelli dei sondaggi in vista del referendum del 4 di dicembre e dunque la necessità di recuperare una parte del malpancismo nei confronti dell'Unione Europea o dell'opinione pubblica alimentata a pane e germanofobia. Quanto al bilancio 2017, bilancio pluriennale, veti, strategie. L'impressione che avuta qui a Bruxelles, ma non solo, anche nelle altre capitali, è che tutto questo atteggiamento del Presidente del Consiglio, tornato ad essere condottiero di una battaglia contro la Germania con l'Europa, sia dovuto alla politica interna. I numeri sono molto chiari. L'Italia questa settimana si è astenuta per la prima volta nella sua storia sul bilancio dell'Unione Europea per il 2017, un bilancio che è di circa 160 miliardi di impegni di spesa, 134 di crediti di pagamento. E perché si è astenuta l'Italia? Per due ragioni hanno spiegato gli italiani: una riduzione degli incrementi in favore dei paesi mediterranei, 332 milioni invece di 340, cioè una differenza di 8 milioni, e poi il rinvio temporaneo del finanziamento di un fondo che dovrebbe servire a combattere le cause profonde dell'immigrazione, 250 milioni. Insomma, su 160 miliardi diciamo che ci siamo astenuti, o l'Italia si è astenuta, per 8 milioni o 258 milioni, questo è l'ordine di grandezza. Tra l'altro su un bilancio che prevede quasi 6 miliardi in più per il prossimo anno per la crisi dei migranti e la gestione della sicurezza delle frontiere esterne, che sono due obiettivi dichiarati di Matteo Renzi. Questa è la battaglia, l'Europa deve fare di più sui migranti e sulla crescita. Il bilancio dà anche 700 milioni in più per i programmi come Erasmus, Horizon 2020, che è la ricerca, lo sviluppo, l'iniziativa giovani per lottare contro la disoccupazione giovanile. Insomma, qui la cosa è stata vista come una mossa tattica in vista del referendum. E comunque, se ho ancora un minuto, non mi pare stia producendo grandi effetti questa strategia del veto. La Commissione europea questa settimana ha chiesto di modificare la manovra per 5 miliardi. Calcoli ci vorrebbero ore forse per spiegarli, ma la sostanza è quella. 5 miliardi malgrado una grande concessione su in termini di flessibilità per i migranti e soprattutto per la messa in sicurezza del territorio, delle scuole, non solo delle zone colpite dal sisma come prevedono le regole. La Commissione ha in qualche modo stracciato le vecchie regole per fare un favore all'Italia su questo e per mettere flessibilità per finanziare questa messa in sicurezza delle scuole in tutto il paese, ma rimangono i 5 miliardi che il governo dovrà trovare se vuole una procedura per deficit eccessivo. E comunque, e poi, anche in questo, Davide, più che oltre che allargare i criteri, oltre che come si vede accedere alle proposte generali italiane sul bilancio, ma specificamente sulla nostra manovra, oltre che allargare i criteri e oltre che sospendere il giudizio e non farlo pesare nella campagna elettorale per non inquietare il governo, non so, io ho l'impressione che in realtà è una polemica che ormai prescinde dal merito, parliamocelo chiaro, cioè non va bene neanche se arrivano i tre magi che parlano tedesco e gli consentono di fare due punti di deficit in più da un giorno all'altro. Il governo Renzi, per essere chiari, in questo ha un track record inequivocabile, cioè la Commissione Europea, da che in questi 1000 giorni ci ha dato praticamente 2 punti di deficit in più, quindi questa storia l'austerità deve finire, è una palla clamorosa, vi prendono per il culo, cari ascoltatori, mi dispiace, molti di voi sono convinti invece che noi qui siamo al servizio del piano delle multinazionali tedesche e germaniche del rigore, non è così, il rigore in Italia, mi dispiace, siccome lo dicono i numeri, la spesa sotto Renzi, detto 1000 volte, la velocità incrementale della spesa pubblica è molto diminuita, ma ha continuato a salire, sia pur di poco, sia pur di poco, stiamo parlando, diciamo, di un 10 miliardi, ma 10 miliardi sono comunque un bel po' di PIL, per così dire. Il prelievo pro capite della pubblica amministrazione in Italia era di 12.778 euro, nel 2016 è di 12.956, è salito. 1000 giorni, più spesa, più prelievo. Mi dispiace. Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a coorte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Ed eccoci a un tema classico che nella vigilia di Natale, ohimè, va visto con lo spirito non tradizionale. Qual è il tema classico? Il tema classico è: qual è il peso reale dell'evasione e dell'elusione fiscale nel nostro paese? Quanto altera davvero i conti ufficiali dello Stato? Ha ragione o torto chi dice che siamo l'eccezione nel mondo e che da tutto questo dipende in realtà quello che può sembrare un prelievo fiscale eccessivo? Ecco, una commissione ad hoc si è occupata di fare il punto di questa questione, sulla quale, sapete, io sono molto critico, perché non credo affatto né che gli italiani siano atavicamente nel DNA degli evasori fiscali, e soprattutto finché non vedo un solo euro retrocesso ai contribuenti che pagano le tasse, di quelli che ogni anno lo Stato dice record di gettito da lotta all'evasione fiscale, non credo al fatto che se pagassero tutti pagheremmo meno, perché non ho visto una sola volta una conferma di questo. Ne abbiamo parlato e qua trovate 15 minuti con il presidente, il professor Enrico Giovannini, ex presidente dell'Istat, che appunto ha diretto questa commissione di approfondimento. Allora, i compagni di Conti da Belva tornano a salutarvi, e uno dei capitoli di fondo di questa finanziaria sulle entrate, la parte preminente delle entrate one-off, per così dire, una tantum, sono quelle che derivano proprio dalle strategie, diciamo così, di contrasto al sommerso e all'evasione fiscale. Visto che stiamo parlando, dovevano essere 4, adesso si diventano poco più di 3 miliardi la stima delle entrate aggiuntive dalla rottamazione delle cartelle, e dopodiché 2 miliardi, poco meno anche lì, adesso sembra che diventino quelli della voluntary disclosure. Ricordo, la voluntary disclosure nella fase A e nella fase B protratta per altri 3 mesi ha portato circa 130.000 soggetti italiani all'adesione di capitali e patrimoni detenuti all'estero sconosciuti al nostro fisco, per un totale più o meno di 60 miliardi e per un totale di 4 miliardi netti di incasso. Altrimenti 60 miliardi di imponibile diventano base imponibile poi permanente negli anni successivi, ma pochissimi di loro, meno di 1.000 su 130.000, avevano anche una componente interna di emersione. Per questo nasceva l'idea del governo di una aliquota di regolarizzazione del contante al 35% di ciò che si detiene nei materassi o nella cassetta di sicurezza, collegata al fatto che viene meno quella che era l'ultima riserva al segreto patrimoniale in Italia, nel nostro paese, visto che da anni tutte le movimentazioni bancarie sono note all'Agenzia delle Entrate, mentre invece quello che c'è nella cassetta di sicurezza è ignoto anche alla banca depositaria con la quale avete il contratto di custodia dei vostri beni. In questo modo in realtà cadrebbe anche questo velo, quello, però è durata una settimana questa aliquota del 35% e pare che adesso, non lo sappiamo, ma pare che rientrerà nella volontà dei due, quindi il tutto dovrebbe avere aliquota di regolarizzazione a seconda dell'anno, della composizione di questo capitale, di cosa ne avete fatto nel tempo, se formato, ma dovete a quel punto dichiararlo, rischierete come minimo da 2 anni di carcere, non 18 mesi, ma da 2 anni di carcere a 6 anni di carcere per mendace dichiarazione. Dovrete dichiararlo perché fa una certa differenza anche se il vostro liquido extrafiscale si sia formato negli anni prima dei 5 anni di accertamento che sono consentiti come ordinariamente all'autorità tributaria, oppure tutta meno roba facile e alla da fine dimostrare, dai, ci paghete. No, ma infatti è complicatissima la cosa, quindi io voglio vederli questi nuovi miliardi che entrano. Potresti uscirgli la contabilità in nero, gli dici guardi l'ho fatta tutta nel 2002. Esatto. No, ma questo per dirvi che il fenomeno di come si affronta il nero, in realtà tutti buoni a farci prediche, poi non è così facile, perché di solito lo Stato ci si risolve solo perché è affamato di entrate, perché anche questa volta si capisce che è quello più che una strategia ordinaria. Allora, passo indietro, siccome è arrivata una relazione fatta da ottime e straordinarie persone, che aveva proprio l'incarico di stimare le cosiddette economia non osservata, l'evasione fiscale contributiva nel nostro paese, con una solo riflessione quantitativa, con una metodologia raffinata, ma anche con capitoletti ad hoc su ogni tipo di maggiore imposta, l'IRPEF, l'IVA, l'IRAP, dando un giudizio di come si affronta il sommerso dopo averlo stimato, ci siamo detti incardiniamo di lì la riflessione, e quindi è con noi il presidente della commissione, cioè Enrico Giovannini dell'Università di Roma Tor Vergata, lo ricordate tutti, l'ex presidente dell'Istat e persona di straordinario riferimento, questo è il mio giudizio personale, grazie di essere con noi. Buongiorno. Allora, parto da un dato, perché tutto sommato la stima progressivamente aumentata dal 12,6% del PIL al 13,1% del PIL si direbbe che non è un grande incremento rispetto alla stima precedente, è così o no? Beh, lei sta facendo riferimento alla stima dell'economia non osservata dell'Istat. Ricordo che l'Istat fino a qualche anno fa stimava una quota di economia sommersa, cioè di economia che non è illegale ma è svolta in maniera illegale, di circa il 17%. Con la revisione del 2014, il miglioramento delle metodologie statistiche e così via, era scesa a circa l'11%, questa volta però inglobando anche l'economia illegale, sì, cioè l'attività della prostituzione, la produzione di stupefacenti e così via. Bene, questa percentuale è salita dal 12,4% al 13% tra il 2011 e il 2014, e anche l'occupazione irregolare è cresciuta. Questi sono dati abbastanza noti, come lei diceva. Quello che invece la relazione, su cui entreremo penso tra qualche minuto, della commissione che io ho presieduto, fa una stima dell'evasione che deriva da questa economia non osservata. Sì. E parliamo di circa 110 miliardi, quindi sono circa 211 miliardi la stima dell'economia non osservata. A questo si deriva una evasione fiscale di circa 110 miliardi. In realtà questa stima è ancora limitata perché nei 3 mesi in cui abbiamo potuto lavorare quest'anno abbiamo considerato per ora soltanto il 70% di imposte e contributi, quindi questi 110 miliardi sono relativi soltanto al 70% del totale delle imposte e contributi. Uno potrebbe dire che in realtà questo 13,1% contribuisce molto generosamente alla credibilità e solidità dei conti pubblici, perché se lo levassimo dal denominatore il debito pubblico si imparerebbe ulteriormente. Ma al di là di questa, che è una battutaccia, quello che mi interessa col professor Giovanni è capire, in ordine di maggior rilevanza quantitativa, quindi di gravità e di estensione del fenomeno e di minore apporto alla finanza pubblica, imposta, per così dire, la stima effettuata dalla commissione di quanto manca, e quindi quanto gettito manca. Io a queste cifre di gettito potenziale non attribuisco tutto il potere salvifico di tutti, cioè il problema non è entrano 110 miliardi e abbiamo risolto il problema, per stimare serve a capire le strategie di contrasto, non serve a dire che arriviamo a fare 110 miliardi di entrate in più. Ma detto questo, cominciamo in ordine quantitativo di rilevanza e di gravità, ma subito per ogni imposta aggiungendovi la riflessione conclusiva della Commissione su questo: il contrasto si potrebbe fare così invece che cos'ha. E quindi in ordine di quantitativo di gravità, da cosa cominciamo? Dall'IVA. Ma lei comincia dall'IVA giustamente, perché sono circa 40 miliardi l'evasione, ed è un'evasione che corrisponde al circa il 30% della base imponibile, cioè rispetto alla base imponibile complessiva il 30% viene evasa, ed è un'evasione molto articolata, molto complessa. Tra l'altro l'Istat ha fatto una serie interessante di analisi sulla parte dell'economia non osservata, che nota come ci siano intere filiere produttive che evadono l'IVA. Sappiamo che l'IVA si paga alla fine, diciamo così, grava sul consumatore finale, ma poi c'è tutta la catena dei produttori che devono pagare e poi vengono rimborsati per una parte dell'IVA. Bene, se non c'è una collusione lungo la filiera produttiva, è chiaro che l'evasione salta fuori. Quello che emerge è che su alcune filiere questa collusione esiste chiaramente, e quindi bisogna andare non a guardare soltanto il singolo evasore, ma a cercare di capire quale è la strategia migliore per cogliere l'intera filiera produttiva. C'è da dire che i dati sono anche stime oramai non solo regionali, ma che vengono fatte tra Agenzia Guardia di Finanza e apparato tributario nel suo complesso, a livello provinciale e subprovinciale sull'IVA. Cioè in realtà sappiamo anche che ci sono parte d'Italia con percentuali molto più elevate, o no? Sì, certamente sì, come sappiamo che sono alcuni settori dove si annida particolarmente, adesso mi riferisco all'economia sommersa. Tenga presente che i servizi cosiddetti alle persone, penso alle badanti, le colf o le ripetizioni, insomma alcuni casi classici, in questo caso c'è circa un 33,6% il 33,6% di economia irregolare. Poi abbiamo negli alberghi pubblici esercizi, i bar, i ristoranti, eccetera, circa il 26%. Le costruzioni hanno circa un 23% di economia non osservata. Le attività professionali, scientifiche, tecniche, le attività di servizi, circa il 20%, e poi l'agricoltura circa il 16%. Quindi sappiamo anche quali sono i settori in cui si annida maggiormente l'economia sommersa, e naturalmente l'IVA dipende strettamente dal volume d'affari, e quindi anche l'IVA è concentrata in questi settori. Posso dire una cosa al professore? Allora, una cosa di cui molti ascoltatori secondo me non si rendono conto è che spesso l'evasione dell'IVA è del consumatore, cioè quando noi non paghiamo l'IVA all'idraulico è il consumatore finale, non è l'idraulico che sta evadendo l'IVA. L'idraulico poi evaderà la sua parte di, diciamo, tassazione sul reddito perché non fattura. Però nel momento in cui noi costruiamo, sentivo che è abbastanza importante quello delle costruzioni, e non ci facciamo fare la fattura per non pagare l'IVA, è il consumatore finale che evade, o no? Assolutamente, lei ha ragione, ed è il discorso della filiera che facevo in precedenza, perché è evidente che se l'artigiano o quello che ci fa il lavoro di ristrutturazione di casa non emette una fattura, a quel punto non si fa neanche fare una fattura sui materiali utilizzati, e via via a risalire lungo la filiera, perché altrimenti da qualche parte questo emergerebbe. Comunque io vi invito, questa relazione, se venite sul nostro sito, noi è pubblica, comunque la trovate anche sul sito del MEF, a leggerla attentamente. Abbiamo una pausa e torniamo tra poco. Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò, sì! I conti della Belva. E infine, cari ascoltatori, anche qui, spirito natalizio di un paese che ha troppo disoccupati giovani, bassissima partecipazione al mercato del lavoro di giovani e donne. E allora, abbiamo fatto una riflessione sui dati complessivi del lavoro negli anni che abbiamo alle spalle, del lavoro giovanile, dei voucher, della precarizzazione, alcuni dicono la uberizzazione del lavoro, e insieme a Marta Fana, che la pensa ma è un po' diversa, noi compari Conti della Belva, ma con cui spesso decidiamo di ragionare insieme, e con Francesco Seghezzi, ricercatore di ABDA, l'ultima mezz'ora è proprio su una riflessione di queste, ohimè, evidenze non troppo soddisfacenti neanche a Natale del mercato del lavoro italiano. Sappiamo che le cose vanno male, più che male. È la follia. È come se tutto dovunque fosse impazzito, così che noi non usciamo più. Ce ne stiamo in casa e lentamente il mondo in cui viviamo diventa più piccolo. E diciamo soltanto, almeno lasciateci tranquilli nei nostri salotti, per piacere. Lasciatemi il mio tostapane, la mia TV, la mia vecchia bicicletta. E io non dirò niente, ma lasciatemi tranquillo. Beh, io non vi lascerò tranquilli. Io voglio che voi vi incazziate. Non voglio che protestiate, non voglio che vi ribelliate. Non voglio che scriviate al vostro senatore, perché non saprei cosa dirvi di scrivere. Io non so cosa fare per combattere la crisi e l'inflazione, i russi e la violenza per le strade. Io so soltanto che prima dovete incazzarvi. Dovete dire: sono un essere umano, porca puttana, la mia vita ha un valore. Allora, perché abbiamo iniziato, avete visto che sistematicamente usiamo questo stacchetto da Quinto Potere per dire che siamo arrabbiati? E siamo arrabbiati e molto preoccupati per la piega che sta prendendo, non in questi giorni, è una piega strutturale nel mercato del lavoro nel nostro paese. Gli effetti del decalage della decontribuzione sono chiarissimi e purtroppo, mi viene da dire, danno ragione a chi come noi obiettava all'inizio alla scelta della massiccia decontribuzione per la trasformazione di ogni tipo di contratto. Sarebbe stata una droga a cui effetti a cui venir meno sarebbero manifestati, e si sono manifestati e si manifestano da una parte. Dall'altra abbiamo poi fenomeni, io ne cito solo due o tre, poi presento gli ospiti e chiedo anche a Carlo Alberto subito di darci un'opinione. Abbiamo fenomeni che hanno a che vedere, oltre alla, tra virgolette, distorsione delle scelte fatte sul mercato del lavoro, con fenomeni reali, e ci pongono delle questioni importanti. Da una parte, per esempio, ci sono le centinaia di ragazzi che scommettono su se stessi e vengono selezionati dalla Apple Academy a Napoli. Centinaia di giovani che scommettono che la propria formazione perfezionerà ulteriormente con uno dei più grandi protagonisti come impresa dell'economia e dei prodotti della rete, e scommettono su se stessi di diventare sviluppatori e di poi approfittare di queste skills sul mercato dell'economia digitale. Dall'altra abbiamo 80.000 dipendenti di Almaviva, call center, meno della metà, un po' più della metà, i servizi di marketing con i call center, che in realtà stanno smontando la posizione in Italia. Dicono: non ce la facciamo più, è inutile che ci chiamate ogni volta che vi proponiamo 3-5.000 esuberi dicendo che non dobbiamo farli, perché a questi costi e con le gare al ribasso che ci sono in Italia noi non possiamo starci. Quindi economia dei servizi a bassa specializzazione che regge. Dall'altra, pezzi di economia collegata all'economia digitale dei servizi, consegna dei cibi a domicilio, Foodora, impresa tedesca specializzata nel ramo, e però anche lì stiamo parlando di co-co-co di vecchio tipo, con proposta di passare da una retribuzione ancora più bassa rispetto a quella di un co-co-co a cottimo, e quindi 2 euro e qualche cosa a consegna con un'ora di pedalata. Con le proteste a questo punto di chi in Italia per Foodora era collaboratore di Foodora e l'immediata reazione da parte dell'azienda dicendo tu e tu fuori. Andiamo ai voucher. I dati sui voucher sono anche lì. Io sono per la flessibilità, ma come è possibile assistere a una cosa di questo genere senza rilevare che siamo in una contraddizione totale? Oscar, non siamo in una contraddizione totale, siamo in una polarizzazione totale, perché andiamo verso sostanzialmente due tipi di lavori: quelli skillati, dove abbiamo delle carenze importanti di skill, dove la nostra scuola superiore non produce. Ero proprio l'altro giorno a un convegno di Esso Lombarda con Fraunhofer, i tedeschi, che invece hanno costruito la piramide delle professionalità a sostegno dell'innovazione molto robusta, e noi avevamo, per carità, un po' di laureati ma pochi, ma praticamente dietro a loro nessuno, con i quadri intermedi che devono costituire l'ossatura dell'innovazione, che non si trovano. In compenso abbiamo poi appunto i pedalatori urbani a 3 euro a consegna, che però il prezzo di mercato, Oscar, non ti scandalizzare. No, la verità, ma io non mi scandalizzo, mi chiedo però dove andiamo, visto che l'effetto del Jobs Act sugli under 50 anni, come sappiamo, è negativo, perché questo è il totale di occupati. Due, dal punto di vista delle skills, grande polarizzazione. Poche centinaia sono quegli sviluppatori che andranno alla Apple Academy, mentre invece centinaia di migliaia per la nostra formazione li avviamo all'economia dei servizi despecializzata e a bassissimo reddito. Più del 9% del totale del lavoro dipendente, perché i milioni di voucher a questo arrivano, in realtà sono lo 0,2% del totale monte salariale italiano del lavoro dipendente. Capisci, caro Alberto, che io sono per la flessibilità e liberista, ma con questi numeri sto dicendo alla gente sparate. Ma no, è che non puoi imputare al mercato il costo minimo della manodopera non qualificata. Semmai prendiamo un problema di welfare, per carità, io sono il primo ad accettare il problema. Non è che limitando il prezzo minimo della prestazione, imponendo la rigidità, riusciamo a risolvere il problema. Semplicemente non abbiamo neanche qua la quota di servizi. Però o rivoluzioniamo la nostra formazione, il costo medio. Ecco, allora perfetto. Parliamo di che skill dobbiamo ai giovani. Gli diamo disperazione, scuola. Li prendiamo per il culo, gli possiamo dare i bonus diciottenni, però li prendiamo per il culo. No, ma rimandiamoli a scuola, visto che non ci sono andati nelle scuole giuste. Dobbiamo rimandarli a scuola con costi molto più bassi, senza segregarli per 15 anni in un convento in preda sostanzialmente a un delirio culturale senza riferimenti economici, e li riqualifichiamo. Io non sono pessimista, però non è che ce la prendiamo con la coda del problema, andiamo alla testa del problema. Allora, chi sono i nostri ospiti? I nostri ospiti sono Peradapt, il centro studi che noi utilizziamo, a cui riconosciamo volentieri il fatto di essere la punta avanzata della riflessione, in cui almeno ci riconosciamo noi, sui temi del mercato del lavoro. E con noi Francesco Seghezzi, ricercatore. Buongiorno e grazie di essere con noi. Ed è con noi Marta Fana, che ha un PhD al Economist in economia a Sciences Po a Parigi, e scrive per Il Manifesto, approfondisce i dati, spesso beccando molte incongruenze su come vengono rilasciati e interpretati i dati del mercato del lavoro nel nostro paese. Posso iniziare proprio da Marta Fana per dire come la pensa rispetto a queste contraddizioni? Noi per primi che la pensiamo così le poniamo apertamente, come vedi. In realtà entro le contraddizioni proprio della vostra analisi, sì. Nel senso che i dati sono quelli che avete detto verissimi, però quando si parla di mercato no, secondo me c'è una linea di fondo che viene in qualche modo ignorata, ovvero da un lato la polarizzazione del mercato del lavoro di cui si dice, quindi la formazione non è proprio così come dice Carlo Alberto di fatto. Perché? Se perché guardiamo i bikers, quindi i fattorini di Foodora, in realtà non sono persone non formate, sono dei laureati che in un sistema anche di mercato, quindi capitalistico, in cui però l'industria investe, troverebbero sicuramente spazio. Dico, in Francia e in Inghilterra anche gli storici trovano delle ottime qualificazioni in termini proprio di mercato del lavoro, eccetera. Quello però che si deve dire anche è che queste app come Foodora, che qui magari sono state sviluppate da 5 dei 100 ragazzi che oggi stanno all'Apple Academy, sì. Poi però per fare quei 400 milioni di fatturato l'anno hanno bisogno comunque di forza e lavoro, su cui estraggono sempre più plusvalore, perché non è vero che quello è il prezzo di mercato. Parliamo di diritti nel mercato e fuori dal mercato in qualche modo. E da questo punto di vista è proprio una questione di distribuzione, cioè qual è per noi la remunerazione che una startup del genere, che poi in realtà andrà come è stato per altre startup dello stesso settore, per esempio nel bolognese, poi integrate, quindi capitalizzate in una concentrazione più monopolistica, oligopolistica dello stesso settore, è quello che invece va ai lavoratori. Cioè, questo è un principio di fondo. La manodopera di cui, diciamo, si avvantaggia la piattaforma, l'algoritmo di questo tipo di distribuzioni, che poi appunto partono da delle app, è a bassa qualifica, ma è il sistema di quel settore che è tale. E questo però non vuol dire che la produttività maggiore del lavoro sia talmente bassa, ovvero 2,70 euro a consegna, e quindi ci possiamo permettere il cottimo, perché i guadagni sono altri. Se si fermassero i fattorini, Foodora non guadagnerebbe più nulla. Quindi in realtà su questo la distribuzione del valore aggiunto generato dovrebbe essere diversa, anche all'interno del mercato. Dall'altro lato però una cosa che per esempio dicevo io sui voucher, che secondo me appunto stiamo andando verso la voucherizzazione dell'economia anche in termini proprio di sistema economico, infatti la produttività del lavoro cala nel 2015, è che se contiamo le ore lavorate a voucher nei primi 8 mesi del 2016 e le ore lavorate attraverso i nuovi contratti a tempo indeterminato, quindi assumendo sono persone che lavorano 8 ore al giorno tutti i giorni, vediamo che le ore a voucher sono di più di quelle del lavoro a tempo indeterminato. Quindi il problema è il mercato. sono le scelte imprenditoriali, il modo in cui gli imprenditori estraggono valore attraverso l'abbattimento e il costo del lavoro. Perché un'altra cosa che ci dice importante l'INPS, che il problema dei voucher non è l'emersione che rimane lì, come ci siamo sempre detti, il problema è che ci sono persone, lavoratori dipendenti, spesso part-time involontari, che nella stessa azienda vengono poi retribuiti, ad esempio tramite gli straordinari, con i voucher, sì, e non secondo i contratti nazionali. Esatto. Ora, non sono necessariamente aziende in via di ristrutturazione con problemi no. di bilancio, sul fallimento, quello è un modo per estrarre valore, fare più profitti e abbassare i salari. Quindi in realtà il mercato sì ha un problema, soprattutto in Italia, che è estraccione e soprattutto non investe. Di questo ce ne parlerà anche Francesco, con cui non concordiamo su alcuni punti, no, di questo piano Industry 4.0. In realtà è una polarizzazione della distribuzione del valore aggiunto e una negazione di diritti, perché poi ricordiamoci che parliamo tanto di welfare, ma in realtà dai co-co-co ai voucher non c'è nessun diritto sociale riconosciuto per questi lavoratori. Secondo me è proprio un problema di struttura dell'economia, di cosa imprenditori oggi scelgono di fare. Ma noi per questo abbiamo chiamato, perché noi abbiamo un'idea di fondo, che si tratta di adeguare la struttura formativa, l'organizzazione d'impresa, perché poi Industria 4.0 significa cambiare la mentalità nella rete delle piccole imprese prima che i grandi gruppi. Internet delle cose è una rivoluzione, per così dire. Però tu ci dici, no, guardate, c'è un grande problema, però, che noi abbiamo un mercato del lavoro straccione, perché tende inevitabilmente a utilizzare gli strumenti per il lavoro aggiuntivo, come dovrebbe essere il voucher, lo tende a integrare in una funzione ordinaria di sviluppo di un modello di abbattimento, utilizzando tutto il possibile del costo del lavoro, riduzione dei diritti. Quindi sono due impostazioni, come devi dire, diverse, su cui però io mi interrogo molto, perché io penso che in alcune parti d'Italia c'è un problema di industria 2.0, 3.0, 0,5. Allora io lì che veramente che si fa la rivoluzione di cui siamo convinti io e Carlo Alberto, mi guardo allo specchio e dico, ma chi cavolo lo racconti, caro Oscar? Allora un minuto di pausa e poi vi sentiamo Francesco Sghezzi su quello che hanno detto Carlo Alberto e Marta Fan. Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Allora, eccoci tornati qua in studio con i compagni dei Conti della Belva, i nostri due ospiti Marta Fana e Francesco Sghezzi, e stiamo parlando di questa realtà molto preoccupante in un mondo del lavoro in cui gli effetti del Jobs Act e della decontribuzione sono stati più occupati, ma sopra i 50 anni, no, certo per i giovani, le caratteristiche strutturali che emergono nel mercato del lavoro sono però molto polarizzate tra occupazione con skills molto premiate, e sarà sempre più così con l'industria 4.0, un sistema di formazione italiana che non, però non le fornisce, un sistema invece che fornisce qualifiche che però portano direttamente al precariato. Si tratti di forme di partecipazione al mercato del lavoro nell'economia despecializzata, sia pur proveniente dal digitale, per così dire, come il caso Foodora, si tratti dei vecchi call center a pezzi, i voucher che a milioni e milioni e milioni e milioni contribuiscono, sono 115 milioni di voucher venduti nel 2015, ulteriore aumento tra il 40 e il 60% nel 2016 in corso, che ci dicono di un mercato del lavoro molto polarizzato. Allora, Marta Fana ci ha detto, guardate, c'è una caratteristica però di mercato del lavoro straccione in Italia, lo dico usando lo stesso aggettivo, è una critica molto forte, è una critica alle imprese eccetera eccetera, che si aggiunge a quella sulla formazione. Allora io chiedo a Francesco Sghezzi di dare una risposta all'impostazione Carlo Alberto, all'impostazione Marta Fana, e poi chiederò anche al nostro imprenditore Cifarelli, che sta qua, quanto se sono si straccione. Sente... No, beh sì, sì, perché io penso che non è un mistero, rispetto a Marta Fana la pensiamo molte volte, alcune volte diversamente sui suoi presupposti politici e così via, però l'analisi, parliamoci chiaro, Renato Cifarelli, io conosco molte imprese che fanno esattamente quello che ha detto Marta Fana, e non lo fanno perché stanno al limite estremo della sopravvivenza e quindi o abbattono per 3 mesi il costo del lavoro o vanno per aria, lo fanno perché lo fanno strutturalmente, lo fanno perché si difendono, perché purtroppo in Italia abbiamo degli oneri di sistema che sono. Ok, però ci arriviamo. Sentiamo. Cominciamo da Sghezzi di Adapt. Prego. Allora, no, io condivido, ci sono elementi di verità sia nell'analisi di Carlo Alberto che in quella di Marta. Da un lato, spesso la formazione richiesta oggi ai giovani che vogliono entrare in un mercato del lavoro moderno, in imprese moderne, che hanno a che fare con la tecnologia, eccetera, non c'è. Dall'altro, però, io vedo anche che tante volte le imprese non investono particolarmente in questo, perché ha ragione Marta, ci sono tanti laureati all'estero in materie umanistiche o di comunque che oggi verrebbero considerate in qualche modo che possono portarti a fare solo il fattorino e consegnare cibo in bicicletta, ma che invece con... se venissero considerati in altro modo, se si investisse sulla formazione e sulla riqualificazione di competenze che già ci sono, potrebbero dare molto. Ma al di là di questo, io vorrei aggiungere un elemento in più rispetto all'analisi. C'è anche un aspetto di regolazione del mercato del lavoro che ignoriamo, ma che ha un effetto di coordinamento importante. Il Jobs Act non ha cambiato praticamente nulla dei voucher, ha aumentato la soglia annuale da 5.000 a 7.000, quindi non ha fatto tantissimo. Ma perché secondo me si è creato il boom dei voucher soprattutto a partire dal 2015 e poi nel 2016? Io credo perché il Jobs Act ha distrutto, eliminato quelle forme che potevano essere i co-co-parò, ad esempio, per cui tante volte usate malissimo, usate per senza diritti, senza tutele, e usate in modo sbagliato rispetto all'origine, a quello per cui state pensate, per cui le imprese e il mercato avevano a disposizione meno forme di regolazione del lavoro per gestire in qualche modo la flessibilità richiesta oggi da un mercato abbastanza dinamico. Perché su questo non abbiamo ancora conferme, purtroppo. Con Marta stiamo chiedendo da tempo dei microdati all'Inps per capire se quelli che sono andati a lavorare in voucher nel 2015 o nel 2016 era gente che prima faceva i co-co-pro, aveva forma di collaborazione. Ma io credo che questo sia un punto fondamentale, perché oggi se non esistono strumenti con i quali l'impresa può in qualche modo garantirsi la flessibilità che ha bisogno data da una produzione più variabile, e dopo andrà a prendere i voucher, userà quello che ha a disposizione, e questo è un problema. Se noi continuiamo a pensare che l'unica modalità sia insistere sul contratto subordinato a tempo indeterminato spendendo 19-20 miliardi per incentivarlo, poi stiamo vedendo oggi il giorno che gli incentivi scompaiono i contratti finiscono, ma non perché le imprese non vogliono assumere, perché l'anno scorso hanno assunto, ma perché non hanno strumenti di regolazione del lavoro per assumere. Ecco, però Francesco, ti rendi conto che è un doppio paradosso: da una parte aver speso tutte quelle risorse che sono state contribuzioni ordinarie alle imprese più che decontribuzione di lavoro aggiuntivo, perché questo è stato certo, con l'idea, perché noi abbiamo fatto la scelta, il contratto a tempo indeterminato, e quindi è una grande scelta di stabilità sociale. Dall'altra, siccome il contratto a tempo determinato non è il vecchio contratto a tempo determinato, dall'altra in realtà esplosione del voucher che diventa modalità ordinaria, non lavoro aggiuntivo. Era nato per le vendemmie stagionali il voucher, sempre essere chiari. O per la donna di servizio, allora, saltuaria. Qui stiamo parlando del fatto che, se andiamo a vedere i settori di attività in cui è applicato in settori di attività completamente diversi, oramai del tutto trasversali, per così dire. Allora, posso fare una domanda agli specialisti di mercato del lavoro, e quindi a Francesco e a Marta, proprio una domanda da ignorante. Dunque, il Jobs Act ha fatto sparire alcuni profili lavorativi, quindi co-co-co e quant'altro, anche il lavoro a chiamata, immagino, e questo, secondo Francesco, ma forse anche secondo i dati di fatto, ha provocato l'esplosione del ricorso al voucher. Questa è l'ipotesi interpretativa. Però io mi chiedo, veramente da perfetto ignorante della materia, perché ci si è girati al voucher anziché al tempo determinato? È un problema di onerosità comunque del contratto, immagino? Marta. Ma sì, da un lato è proprio questo, che è quello che dicevo prima. Questa interpretazione è corretta, perché pensiamo che oggi comunque il 40% dei contratti a termine durano non più di 2 giorni. Quindi in realtà sono molto assimilabili al lavoro in termini contrattuali a non produttivi. Ovviamente un tempo determinato implica anche per quei pochi giorni di lavoro una contribuzione superiore al 13% che quella invece attribuisce voucher, e anche appunto il riconoscimento dei diritti sociali di fatto dei lavoratori, quindi la malattia, la maternità, nel caso la maturazione delle ferie. Ora, perché io dico, è una questione di onerosità, però non possiamo pensare, questo i dati ce lo dicono anche in termini di congiuntura poi del PIL, che il problema siano le tasse alle imprese, perché se fosse stato così, in realtà nel 2016 il PIL sarebbe salito molto di più, e soprattutto ci sarebbe stato quello che noi chiamiamo il moltiplicatore, no, della fiscalità, ovvero meno tasse secondo la teoria mainstream, anche per l'impresa avrebbe dovuto generare altri posti di lavoro oltre quelli no, in esigenza per il 2015 e parte del 2016 che sono stati assorbiti nel 2015 grazie agli sgai. Questo non si è avuto, quindi significa che il problema non è abbassare i soldi alle imprese per sviluppare e in qualche modo far ripartire l'economia, ci vorrebbe forse altro, e questo continua a essere negato. Ora, noi, in realtà il governo, non noi, ecco. Ma io sarei molto felice se non fosse negato. Il 1 gennaio 2017 l'abbattimento dell'IRAS, che è una tassa sui redditi d'impresa, dal 27,5 al 24%. Infatti è l'ennesimo tentativo, no, di abbassare le tasse alle imprese, che però non hanno mostrato nessuna, come si dice, proprio appunto l'effetto espansivo, no, di crescita produttiva. Io e sostengo questo, appunto, che più che per colpa delle imprese è il mercato del lavoro. Però prego. Guarda è che la concentrazione dei nuovi contratti, che sia a tempo indeterminato o a voucher, a livello settoriale, sono tutti servizi a bassa produttività. Esatto. Questo è un problema di struttura dell'economia italiana. Esatto. Non possiamo sono convinto questo al 100% di quello che dici. Non sul fatto che le imprese, perché le imprese reagiscono, esatto, agli impulsi politici. Se l'impulso politico è job ax con 20 miliardi da una parte, scusate, più voucher, faccio voucher. Aspetta un secondo perché poi viene la tua parte. Però purtroppo il tempo si è esaurito, cari amici. E quindi io devo ringraziare Francesco Ghezzi e Marta Fana. Come vedete non siamo abbastanza manca il tempo, però grazie per questa riflessione. Come vedete sono gli argomenti sul campo sono diversi, ma per alcuni punti convergenti anche da chi ha strumenti culturali. Ti pare, Mario? Sì, siamo un'economia a basso valore aggiunto, ecco. Questo è il dramma, e siamo diventati così col trascorrere dei lustri. Bravo. Per errori di scelte di politica. Bravo. Economica. Sono d'accordissimo. I nostri ragazzi iperqualificati, costretti a trovare altrove una fonte di domanda fuori dai confini, pagano il mismatch tra, esatto, un'economia nazionale a basso valore aggiunto e le loro competenze. Esatto. E queste sono cose che non si risolvono nello spazio di una legislatura, e ricordiamo purtroppo che la produttività multifattoriale anche nel DPB del governo resta negativa. Bravo. Fino al 2019. Questa, applausi, è una cosa folle. Questa è la cosa più tragica, se posso dire, dell'impostazione che resta. Finché della si va avanti però a ragionare sulla prossima consultazione elettorale o referendaria, bravo Mario, questo paese è fottuto. E allora, sì, vi abbiamo ricordato in questa vigilia di Natale, da Brexit a Trump, ai mille giorni di Renzi, alla sorpresa del 4 dicembre, al mercato del lavoro italiano, all'evasione fiscale, ma lo spirito è questo. Cari ascoltatori di Radio 24, Oscar Giannino e tutti i compari dei Conti da Belva, Carlo Alberto, Cannavale Maffè, Mario Seminerio, Renato Cifarelli, vi rendono grazie. Esistiamo grazie a voi, comunità di ascolto, Radio 24 è una cosa fantastica, e tutti quanti noi, come dei piccoli elfi, speriamo di portarvi dei bei pacchetti regali in questo Natale. A voi e ai vostri piccoli, a cui dovete insegnare ad ascoltare Radio 24 per Natale. Questa è la promessa che ci dovete fare. Auguri, auguri, abbracci! Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte.